Vedo che si sono chiuse le porte, per cui possiamo iniziare questa serata anzitutto con un indirizzo di benvenuto a tutti quanti siete presenti per questa serata e un ringraziamento anche da parte dell'organizzazione per il questionario che molti di voi con molta disponibilità hanno compilato. Sarà sicuramente un aiuto per essere sempre più efficaci e anche rispondere alle attese del pubblico, alle attese di quanti ci supportano in questo ciclo di iniziative. E soprattutto il nostro più caro benvenuto al professor Pasqualotto e al professor Petrosino, che questa sera relazioneranno e ci introdurranno ad una riflessione sul tema della felicità in rapporto alla religione. Dalle conferenze precedenti mi sembra di poter cogliere che la felicità sia un'entità, un fenomeno, che vada colta ad un paio di livelli almeno. Uno più personale e l'altro invece più collettivo o sociale. Essere felici è certamente una esperienza emotivo-sentimentale, di allargamento del cuore, se volete di sintonia con il mondo che ci circonda, di tensione e di appagamento del desiderio. D'altro canto, la dimensione dell'essere felici sembra anche essere destinata ad una eccedenza rispetto all'ambito della propria individualità e divenire virtù, divenire vita virtuosa, cioè ad una sorta di abilità ad esistere in un contesto di altri consimili che renda possibile la propria autoespressione, la propria perfezione, se volete, utilizzando delle categorie classiche, che vada nel senso però di una cura reciproca tra gli uomini. Stasera andiamo ad interrogarci se la sfera del religioso possa in fondo innestarsi in questa visione. Se cioè la religione, o forse più precisamente le religioni, siano via per la felicità, senza ovviamente dimenticare la problematicità del definire una religione, nella quale convergono aspetti che sono culturali, che sono storici, che sono dottrinali, che sono morali, che sono cultuali, che sono addirittura mistici. La religione comunque come via per la felicità. E viene da pensare immediatamente a quanto si tramanda di un principe vissuto nell'attuale Nepal, circa nel VI secolo avanti Cristo, chiamato Siddhartha Gautama. Ebbene, posto di fronte al disagio esistenziale della malattia, dell'invecchiamento e della morte, egli ricerca una via di superamento di questi tratti che caratterizzano l'esperienza umana, continuamente ripetuta nel ciclo delle dolorose rinascite, il cosiddetto samsara. E una via la trova, quella del Dharma, cioè quella del metodo, del cammino di ricerca spirituale che conduce al risveglio, all'illuminazione, e con esso alla liberazione dalla precarietà delle cose e dal ciclo delle rinascite, sino al Nirvana, lo stato di cessazione del desiderio e dell'ignoranza, che sono l'origine del disagio esistenziale iniziale. È questo l'approdo alla felicità? E più vicini nel tempo e nello spazio, via è anche il termine che utilizzava per presentarsi nella propria predicazione, circa 6 secoli dopo Siddhartha Gautama, un carpentiere, poi divenuto profeta itinerante nella Galilea, chiamato Gesù di Nazaret. Egli proclamava beati coloro che sceglievano la povertà in forza dello spirito, beati erano i miti, gli operatori di pace. Eppure viene da dire che dalla fine che questo personaggio Gesù di Nazaret fece, possiamo quantomeno essere sospettosi della via da lui indicata, che era quella forse della donazione di sé. Eppure ci viene narrato che anch'egli sfuggì dalla presa della morte, risorse a vita nuova. E pensate che nei decenni seguenti, quanti si rifacevano al suo insegnamento si chiamavano per l'appunto via, prima ancora che cristiani e prima ancora che chiesa. C'è un aspetto che accomuna la vicenda di Siddhartha Gautama e di Gesù di Nazareth, e mi sembra possa essere quella della trasformazione. Del Buddha, o meglio di Siddhartha Gautama, ebbero a dire che dopo l'illuminazione, quindi dopo essere divenuto Buddha, non fosse più possibile dire che era un uomo. Con l'illuminazione trasformò se stesso. D'altro canto, di Gesù di Nazareth, dopo l'evento della resurrezione, si dice che la sua presenza veniva scambiata per quella di un fantasma. E pensate che anche gli amici più intimi non riuscivano più a riconoscerlo. Illuminazione e resurrezione, allora, come trasformazione in uno stato di felicità ottenuta? Di trasformazione in qualche cosa di sovraumano? E quindi legato ad una felicità dell'aldilà? E allora viene da chiedersi che cosa farne dell'aldiquà. Se volete, cogliendo anche il titolo del film proposto nel pomeriggio, Fuori dal mondo, viene da dire, può essere la religione una via di un aldilà che entra nell'aldiquà? O forse è una via per cui l'aldiquà assume dei caratteri dell'aldilà? Il tema della religione in rapporto alla felicità. La parola al professor Pasqualotto. Bene, allora io lascio da parte un grande problema che c'è sempre ogni volta che si parla di buddismo, o meglio di Buddha Dharma, e cioè se il buddismo è una religione o no. Do per scontato che lo sia, anche se è del tutto particolare il modo con cui è nata. Dopo si è forse sviluppata più come religione che come filosofia, ma all'inizio è una via di trasformazione appunto dell'esperienza che non implica alcunché di trascendente. Comunque lascio da perdere questo discorso metodologico introduttivo e parto subito da alcune considerazioni di carattere etimologico. E felicità è una parola che, come tutti sanno, deriva dal latino felicitas o felicitas, a seconda di come lo volete pronunciare, e la radice di questa parola è la stessa che noi troviamo in fecunditas e in femina. E quindi la felicità per i latini era soprattutto una questione di benessere, di carattere, non dico materiale, ma comunque non strettamente legato alla trasformazione dello spirito. Mentre in seguito, ma già con i latini, una felicità più intima, più, chiamiamola psicologica se non spirituale, è gaudium. Perché faccio gaudium o letizia? Perché faccio queste divagazioni etimologiche? Perché in realtà anche in sanscrito, in pali, in sanscrito, che sono le due lingue in cui noi possiamo leggere le testimonianze buddiste, c'è una differenza assai simile, e cioè la differenza tra sukha, che è l'equivalente di gaudium, e invece priti, che è l'equivalente di felicitas. È chiaro che il contrario di dukkha, il dolore, è sukha, proprio anche per la desinenza, e quindi noi dobbiamo partire con l'inizio della predicazione del Buddha, che, come è stato ricordato, è un inizio apparentemente pessimistico. Perché? Perché la prima nobile novità, verità del Buddha recita che è presente il dolore. Traduco così, e non il dolore è ovunque, perché altrimenti si potrebbe dare un'interpretazione schopenhaueriana, cioè radicalmente pessimista. Il Buddha registra, constata che il dolore è presente fin dalla nascita e poi continua con quello che si sa, no? Cioè con le malattie, con la vecchiaia, ma la cosa fondamentale è che non è questo dolore legato alla fisicità importante e disturbante, è il dolore di carattere più psicologico che deriva dall'allontanamento dalle cose che amiamo e dalla vicinanza alle cose che detestiamo. E quindi un dolore appunto di carattere sukha, e cioè che viene definito dukkha, come il cui contrario è sukha, la felicità. Ma come notate, una felicità che non implica nulla di trascendente, ma non implica neanche qualcosa di puramente materiale. Dukkha è qualcosa che riguarda soprattutto il nostro atteggiamento nei confronti dell'attaccamento alle cose che amiamo o detestiamo. Quindi il vero problema di dukkha è il desiderio, e il desiderio accompagnato da attaccamento. Questa è la prima nobile verità. La seconda nobile verità è rafforzativa di questa, cioè dice: la radice di dukkha è la brama, cioè la passione. Un altro modo per dire attaccamento, che sarebbe upadana. Quindi le due prime verità sono delle verità che fanno propendere per una visione catastrofica della vita, e cioè tutta la vita è dominata dal dolore, e il dolore è causato dal desiderio accompagnato da attaccamento all'oggetto del desiderio, sia questo desiderio in senso di cose negative, di cose positive, o desiderio di allontanarsi dalle cose negative. Solo che le seconde due verità, la seconda parte della dottrina del Dharma, la seconda parte è positiva, cioè esattamente come nell'atto medico, cioè diagnosi, eziologia, cioè vedere qual è la radice del male, e poi però trovare la possibile terapia e individuare i modi per uscire dalla malattia. E quindi la terza nobile verità è l'indicazione, tecnicamente si chiama Nirodha, che vuol dire estinzione letteralmente, e Nirodha è l'estinzione del desiderio, cioè per togliere il dolore bisogna togliere la causa del dolore, e la causa del dolore, appunto, come abbiamo detto, è il desiderio accompagnato da attaccamento, da passione, brama. E poi la quarta nobile verità è quella, diciamo, più lunga da descrivere analiticamente, quindi qui non lo faccio, è l'ottuplice sentiero, è la via, la medicina, la vera e propria terapia, il modo con cui noi possiamo effettuare questo Nirodha, questa estinzione. Bene, questo è, diciamo, il quadro iniziale, no? Adesso entriamo a vedere che cosa c'entra Sukha, come è possibile trarre motivi di felicità, o meglio di gaudio, da una situazione di questo tipo. Allora, per fare un riferimento molto semplice che è alla portata di qualsiasi lettore, perché è un testo molto breve e si trova in molte traduzioni, e mi riferisco al Dhammapada. E il Dhammapada ha alcuni punti in cui chiarisce che cos'è Sukha, che cosa si deve intendere per Sukha, e cioè per felicità nel senso che abbiamo detto. Allora, primo, Sukha è una condizione di una mente tranquilla, o meglio, tranquillizzata. Che cosa vuol dire questo? Una mente tranquilla vuol dire priva di attaccamento. Le parole di questo testo sono queste. Se qualcuno parla o agisce con mente pura, la felicità lo seguirà come l'ombra che non lo abbandona mai. E questa mente pura vuol dire, appunto, quello che ho già detto, priva di attaccamento, priva di ogni forma di adesione incondizionata a qualcosa. Siamo al paragrafo secondo del capitolo primo. Seconda accezione di Sukha. Sukha, felicità o gaudium, come volete, è risultato di un accumulo di bene, e cioè quando il comportamento continua ad essere proiettato al bene. E le parole esatte sono queste, questo è il capitolo 9, paragrafo 118. Se hai compiuto il bene, continua a farlo. Concentra la tua mente su di esso, perché la felicità nasce da un accumulo di bene. Quindi la felicità nasce dalla iterazione della virtù, diremmo in linguaggio più vicino alle nostre culture. Ossia, il fare il bene e ripetere questa operazione è fonte di gioia. Terzo, la felicità come risultato della distruzione dei mali e delle esteriorità. Questo è tecnicamente. Il testo dice: non soltanto con le regole di condotta, con le osservanze religiose, con l'erudizione, con la concentrazione e con la vita solitaria raggiungerai la felicità della liberazione, ma, o monaco, sarai soddisfatto quando avrai distrutto le radici dei mali. Ora, che cosa sono queste le radici dei mali? Perché questo è il punto che è più importante. La radice del male è il senso dell'io. Per noi occidentali questo è uno dei punti più difficili, più insopportabili del buddismo, perché la maggioranza delle nostre filosofie, delle nostre religioni, hanno tentato di costruire e di rafforzare, di fondare in ogni modo possibile proprio l'io, la personalità, l'individualità. Qui invece si dice esattamente il contrario. Per un motivo molto semplice, che riassumo in breve. L'io, o come si dice nei testi, il senso dell'io, Ahamkara, il senso dell'io è alla base di ogni desiderio, sia di ogni desiderio positivo, nel senso desidero qualcosa, sia nel senso del desiderio negativo, non voglio qualcosa, non desidero qualcosa. In ogni caso, questo io presume di essere una sostanza, presume di essere qualcosa di forte e di inattaccabile. Per il Buddha, la radice del desiderio è l'io. Allora, come si fa a smontare l'io? Vado via un po' per semplificazioni. Allora, i due concetti di smontaggio di questa presunta sostanza sono il concetto di anatta, che vuol dire non sé, o meglio sarebbe tradurlo privo di sé, e il concetto di aniccia, che significa impermanenza o impermanente. Allora, cominciamo con l'anatta, che è il vero concetto rivoluzionario del buddismo. Rivoluzionario sia nel senso storico, cioè nei confronti della cultura hindu da cui il buddismo esce, sia rivoluzionario nei confronti dei posteri, perché in realtà la maggioranza delle filosofie, sia occidentali che orientali, dicono qualcosa di completamente diverso, cioè danno per scontato l'esistenza dell'io. L'induismo, per esempio, è uno esempio clamoroso. Prima si citava la questione delle rinascite. Il concetto di rinascita è possibile soltanto all'interno dell'induismo. All'interno del buddismo questo è molto più problematico, perché il buddismo afferma, in un passo sempre del Dhammapada, se vogliamo essere più stringati possibile, sabbe dhamma anatta, cioè tutti i dhamma, che vuol dire tutte le realtà, sono prive di sé. Cosa vuol dire questo prive di sé? Vuol dire che sono prive di autonomia. Nessuna realtà, né fisica, né ideale, né sentimentale, nemmeno gli dèi, nessuna realtà a tutti i livelli, ha una consistenza autonoma. Questo in positivo cosa vuol dire? Vuol dire che ogni realtà dipende da altro. E quindi, per esempio, l'io, ciascun io delle degli umani, o degli esseri viventi, dipende, per esempio, facciamo l'esempio più banale possibile, dal padre e dalla madre. Nessuno può dire io sono in quanto io. Io sono in quanto sono il risultato di una serie di condizioni, le prime delle quali sono quelle genetiche, ovviamente. Ovviamente potete estendere questo a tutte le condizioni possibili e immaginabili, da quelle linguistiche, a quelle culturali, a quelle religiose, insomma, da quello che volete. La cosa fondamentale è che questo io viene messo in crisi appunto da questo concetto di anatta, privo di sé. Se volete degli esempi banali, potete per esempio prendere il nodo di un tessuto e considerare che il nodo in sé per sé non esiste, ma esiste soltanto in quanto è formato da alcuni fili. Quindi attenzione, non si intende l'io è qualcosa che necessariamente è in relazione con un altro io. Non è così semplice. È qualcosa di più radicale. L'io, ogni io, è costituito da altro. È costituito da altri io e da altre cose, altre condizioni, paticcia in termine tecnico. Quindi non si tratta di una relazione estrinseca, cioè l'io è in relazione con qualcos'altro, ma di una relazione intrinseca. L'io è relazioni, è costituito di relazioni. Esattamente, se voi togliete queste relazioni, l'io non esiste più, come quando da un nodo di un tessuto togliete i fili, il nodo non c'è più. Lo potete fare anche con un esempio matematico, il punto, che è il luogo di intersezione di almeno due linee. Togliete le linee, il punto non c'è più. Ora, questo è il primo concetto che noi dobbiamo prendere in considerazione. Il secondo concetto è quello della Nietzsche, molto più semplice da pensare, molto più difficile da applicare poi nell'esperienza, perché l'impermanenza viene applicata dal buddismo a qualsiasi realtà, anche le più nobili, le più importanti, le più decisive per la vita. Quindi questi due concetti applicati a qualsiasi realtà e in primo luogo alla realtà dell'io, che cosa producono? Producono, o dovrebbero produrre ovviamente, perché non è detto che gli sforzi diano esito positivo, dovrebbero produrre un abbassamento, una riduzione, se non una eliminazione completa, del desiderio. E soprattutto del desiderio, quello che fa più male, quello che produce il dolore, che è il desiderio accompagnato da attaccamento. Quindi il risultato di questo dovrebbe essere priti, attenzione, priti. Cioè la gioia come felicitas, cioè una gioia psicologica. Che cosa ne è allora di Zucca la vera e propria felicità? E qui è il punto più difficile. Zucca è la condizione in cui noi riusciamo a non essere attaccati nemmeno ai risultati di Priti, cioè ai risultati della felicità che raggiungiamo eliminando il desiderio. E quindi Zucca, che all'inizio sembrava una cosa da niente, cioè il semplice contrario di Dukkha, il dolore, è in realtà la liberazione completa dal desiderio, e cioè la liberazione perfino dal desiderio di liberarsi. Non so se è chiaro questo, lo dico in termini più tecnici, perché forse qualcuno preferisce così. Allora, la felicità massima si chiama anche nirvana o nibbana in pali, che non ha niente a che fare con paradisi o roba del genere, di carattere mitologico, ma è la condizione appunto di Niroda, la piena costruzione, come dire, raggiungimento di Niroda, cioè dell'estinzione del desiderio. Bene, ripeto, Zucca non è soltanto il raggiungimento di questa condizione, è il raggiungimento della condizione di nirvana, che significa liberazione anche dal desiderio di raggiungere il nirvana. Questo sembra paradossale, ma se ci pensate in termini psicologici non è affatto paradossale, perché finché noi continuiamo a mantenere il desiderio, cioè l'attenzione, anche nei confronti della cosa più sublime, più alta, come appunto la liberazione totale, vuol dire che non siamo liberati, vuol dire che siamo ancora in tensione, siamo avvinghiati da questo pur nobilissimo, preziosissimo desiderio, e quindi siamo legati al dolore. Perché? Perché quanto meno noi riusciamo ad avvicinarci a questo obiettivo, tanto più soffriamo. E il gioco è tutto qua. A voi adesso decidere se questo fa parte di una religione o di una via esperienziale. Credo che nessuno di noi intenda rispondere alla domanda questa sera, almeno, forse in un futuro remoto. Ringraziamo il professor Pasqualotto per questa sua disamina piuttosto puntuale all'interno della concezione dell'intelaiatura che soggiace al buddismo. Mi permetto solo un paio di richiami che mi paiono interessanti. Quando intendeva l'io come costituito da altro, questa sorta di relazionalità intrinseca agli enti, qui verrebbe quasi forse come suggerimento un'analogia perlomeno della riflessione trinitaria, in cui nella teologia cristiana l'essenza di Dio in qualche maniera è data dalla relazione tra padre, figlio e spirito, quindi molto interessante. E la seconda, questo processo di spoliazione, se volete, o di liberazione totale, che ha molto a che vedere in termini paolini con la kenosis, cioè con lo spogliamento totale del Cristo, per cui forse ci sono dei richiami piuttosto considerevoli tra la sua esposizione e poi anche un altro ambito di maturazione, se volete, religiosa, di cui immagino ci possa parlare adesso il professor Petrosino. Grazie. Grazie dell'invito. No, il bello di queste cose è anche che ci sono posizioni diverse, e quindi io... No, perché io ho sempre pensato che se si dovesse dire, tentare di dire cos'è l'uomo, io direi esattamente che l'uomo è desiderio e Dio. e che quindi togliere o pensare di togliere, che io penso sia impossibile, togliere il problema del desiderio e togliere il problema dell'io sia semplicemente togliere l'uomo. Si può farlo benissimo, cioè non... ma il problema sta esattamente lì. Cioè il problema è come sia possibile essere uomini senza essere appunto violenti, senza essere, senza evaporare come io. Da questo punto di vista, per esempio, i due termini posti, desiderio, tutta la questione sta esattamente, che è uno dei concetti enormi, sta esattamente la non identificazione, io per esempio, ma non dico io, ma non sono io, dico io non identificherei mai il desiderio con la brama, assolutamente mai. Così come per me tutto il problema sta nel pensare un io, se è possibile, e mi sembra che lì sia la sfida, se è possibile un io non narcisistico. Cioè il problema non è il non io o l'annullamento dell'io. La questione, la grande sfida, ma dico nella sfida nella vita di ognuno, se la grande sfida non sia esattamente quella di uno che dice io, che poi a me l'io non piace, perché poi ci sarebbe da distinguere l'io, il sé, cioè la riflessione filosofica ha molto lavorato su questo. Io preferisco, per esempio, parlare di sé. Però diciamo così, se è possibile dire io o dire sé, evitando la dimensione narcisistica. Questo mi sembra la cosa interessante. Cioè, ogni volta che tu dici io, rischi di porti narcisisticamente, ogni volta che dici desidero, rischi di cedere alla bramosia, si tratta di vedere se questo passaggio è una necessità. Io dico di no. Cioè non è una necessità che il desiderio si trasformi in bramosia e quindi in violenza, non è una necessità che dire io si trasformi in narcisismo. Penso ad esempio, adesso vabbè, è chiaro, si è fatta una figura enorme, ma se io dovessi pensare, se adesso tanto per fare in fretta, appunto alla posizione per esempio di Gesù, la cosa sorprendente di Gesù da questo punto di vista è esattamente che in Gesù si configura un soggetto che non è né narcisistico né idolatra. Questa è una cosa enorme per quel poco che si riesce a capire dai Vangeli. Un soggetto che dice io, fra l'altro quando dice Dio io, dice sempre io e il Padre, e questo è già molto interessante, ma che non rinuncia assolutamente a dire io. Allora questo mi sembra la sfida. Certo, noi possiamo tagliare la testa alla questione, sciogliere il nodo esattamente e rinunciando a. Ma la sfida appunto è non rinunciare. In questo senso io trovo assolutamente affascinante la posizione di Schopenhauer, assolutamente affascinante la posizione di Schopenhauer, che criticando, di Nietzsche, lapsus, che criticando Schopenhauer, dove appunto Schopenhauer arriva alla fine, in quel testo strepitoso che è Il mondo come volontà della presentazione, ad una posizione, di liberazione dalla volontà e dal desiderio, Nietzsche rimprovera a Schopenhauer, dice, tu hai avuto paura della sofferenza, ma il sì alla vita implica il sì alla sofferenza. Il sì alla vita non è il tentativo di eliminazione della sofferenza, ma è l'accettazione della sofferenza. E tu in questo, Schopenhauer, che è stato il suo maestro, sei stato debole, hai ceduto. In questo senso, devo dire, rispetto al tema, a me sembra che la parola felicità faccia parte di quelle parole che vanno lasciate nella loro indeterminatezza. Ed è questa la grande... Adesso farò subito un esempio per dire questo. Io ogni volta... La parola felicità è una delle grandi parole che l'uomo ha usato per nominare l'innominabile. Sono parole strane e sono parole come felicità, parole come pace, per poi arrivare alla parola per eccellenza strana, Dio. E il valore di queste parole sta nel fatto, e il dramma di queste parole, e l'umano di queste parole, sta nel fatto che queste parole non determinano Dio, e cioè pace, e cioè... Prendiamo l'altra, prendiamo per esempio felicità, e uno dice cioè... Voi sapete che uno dei luoghi comuni, per esempio, è quello di dire che nella vita la cosa più importante è la salute. Si dice, no? Su cui sono tutti d'accordo in qualche modo, appunto, la salute. Eppure appena uno approfondisce questo tema, subito le cose si complicano. Perché, per esempio, la salute di chi? Per esempio, non la propria salute, ma sempre la salute dell'amato. Ciò che è importante nella vita non è mai la tua salute, è la salute del figlio, è la salute della persona amata. C'è un mio amico che lavora in un reparto di oncologia pediatrica e lui dice che non c'è genitore in 5 anni che lui è in quel reparto che non continui a dire la stessa cosa. Ma perché a lui e non a me? Allora, per esempio, la questione della sofferenza, anche qui, uno dice, beh, bisogna evitare il dolore, la sofferenza. Beh, certo bisogna evitare il dolore, la sofferenza, appunto, come la salute. Però dopo tu vai un po' e le cose si complicano, l'umano si complica. Perché appunto non c'è questo necessario ripiegamento narcisistico su di sé. E devo dire che quando si dice, vabbè, ma quando uno dice al figlio lo dice di sé, sì, però poi ci sono state strane vicende poi nella storia. Io ripeto sempre a padre Colbe che alza la mano e dice non fucilate lui perché alla famiglia fucilate me. E pensare che padre Colbe pensava in una ricompensa, io penso di no. Io penso di no, che in quel momento ha fatto una cosa, in quel momento ha dovuto fare quella cosa lì. L'altro caso che ricordo sempre su questa vicenda, una delle, nel Giardino dei Giusti in Israele c'è una pianta dedicata, adesso non mi ricordo il nome, a una poetessa nazista. Questa poetessa era nazista ed anche dopo è rimasta abbastanza nazista. E come mai è lì? Lei dice che è lì per questa, dicono che è lì per questa ragione, che a un certo momento la signora di sotto è andata a casa sua, ha bussato con i bambini piangenti e ha detto mi stanno cercando, e questa signora nazista, questa poetessa, ha detto vabbè, entrate. E da quel momento ne sono entrati tantissimi. E quando poi gli hanno detto, ma perché le l'ha fatto? Lei ha risposto in un modo commovente. Ha detto, ma cosa dovevo fare? Che è la stessa risposta che hanno dato invece i nazisti, no? Che dicevano, cosa dobbiamo fare? Guarda, questa mi dice, cosa potevo fare? Vengo la signora con i bambini che piangono, la conosco, abita sotto di me, e dai, venite dentro. È strana la questione dell'umano. È strana, non è vero che noi siamo condannati all'egoismo. Non è vero. È vero che il più delle volte, è vero che la vita è difficile e che quindi è vero che il desiderio spesso è bramosia. Ma non è sempre vero, non mi sembra sempre vero. L'uomo è capace è capace di non essere così. Per quanto riguarda la questione, per entrare un po' in merito poi al tema, questa sera è difficile la questione, perché noi abbiamo la parola felicità che va lasciata così, non bisogna minimamente determinarla. Nel momento in cui tu la determini, c'è sempre qualcuno che ti dice che devi comprare qualche cosa. È sempre così, è l'idolo. Nel momento in cui tu pretendi di determinarla, c'è sempre qualcuno che ti dice compra o adora. E la stessa difficoltà sta nella parola religione. Perché la parola religione, cioè, è difficile anche qui, religione. Io vi propongo come questione concettuale, e poi tenterò di rispondere a se c'è un legame. Devo dire che non c'è un legame stretto. In tutte le religioni, la felicità giustamente è intesa come il compimento nell'aldilà. E in questo c'è un senso, quello che dicevo prima, in questa idea che è nell'aldilà c'è qualcosa di grandioso, e cioè c'è esattamente il fatto che non devi determinarlo, che nel momento in cui determini tu rischi sempre di tradire. Per cui un po' si determina. È chiaro che la felicità è stare bene, la felicità è mangiare, è chiaro che la felicità ha a che fare con la pace, ha a che fare con l'ilarità. San Francesco. Converrebbe ricordare che per San Francesco il compimento non sta nella povertà, ma nella ilarità. Perché si può essere poveri e non ilari. Si può essere poveri e violentissimi. Si può aver abbandonato tutto ed essere violentissimi. La grande sfida è l'ilarità nella povertà, dice Francesco. E uno può essere anche ilare magari possedendo. Non possedendo, c'è un modo di possedere che non è possedere. Si può possedere senza possedere e si può possedere non possedendo. Mi dispiace, è complicato, ma è l'umano. Si può possedere non possedendo e si può non possedere possedendo. Per quello Francesco pone il vertice della santità o del compimento nell'ilarità, non nella povertà. Allora, i termini sono appunto complicati, perché io propongo sempre come, mi sembra, uno schema concettuale, poi per quello che può valere, come al solito, le distinzioni servono per far capire, ma poi non esistono mai definizioni, distinzioni nette. Appunto, io distingo, secondo me è necessario distinguere la religiosità dalla religione, e per religiosità bisogna intendere una condizione dell'essere umano. Se io dovessi appunto dare una definizione, è che la religiosità è la condizione di un uomo che si trova legato ad un'alterità che non riesce né a dominare né ad evitare. L'uomo è colui che fa esperienza di un'alterità che non riesce né ad evitare né a nominare. È l'innominato nei Promessi Sposi. Quando viene visitato dall'altro, da quell'altro per eccellenza che è Lucia, zero, una bambina, che lui avrebbe potuto fare quello che voleva, poteva mangiarla, ucciderla, violentarla, fare dei salami, non sarebbe successo nulla. Ma quando l'innominato viene visitato da Lucia, la sua vita cambia, non riesce più a dormire in quieto. E quindi, per esempio, anche qui per me l'umano è l'inquieto. Homo viator, sempre in movimento, inquieto. E l'inquietudine del Don Giovanni, dell'innominato, è sorprendente. quando lui dice che improvvisamente gli vennero in mente tutte le scelleratezze che aveva fatto, ma che quando lo aveva fatto non gli erano apparse come delle scelleratezze. E ora la luce di Lucia. Quindi è una luce, gli si illumina la vita, il passato grandioso. E poi vi ricordate cosa dice Manzoni? Commovente, non riesce a dormire, gira inquieto, e poi a un certo momento dice, e dove dice, e a un certo momento gli viene l'idea di cambiare, di andare in un paese dove nessuno lo conosceva, in modo da poter ricominciare tutto da capo. E Manzoni qui ha un colpo di genio. E dice, ma dove mai avrebbe potuto andare, visto che sarebbe stato sempre in compagnia di se stesso? Lucia non è entrata nel castellaccio, Lucia è entrata nell'esperienza dell'innominato. L'esperienza dell'umano è sempre un'esperienza inquietata dall'altro, dal ricordo della persona amata, dal ricordo dei propri genitori, dal ricordo di quel fidanzato lì, di quella fidanzata lì. Questa cosa costituisce la nostra natura. Tu toglimi dalla mia casa la credenza della nonna, la fotografia del figlio, e toglimi la cosa, toglimi quel libro lì, toglimi la prima lettera che mi ha scritto la mia amata quindicenne, e toglieresti me. Mi sciolgo. Io sono quella cosa lì. E sono a tal punto quella cosa lì che sono addirittura la sofferenza che provo verso quella lettera di quella fidanzata che mi abbandonò. Io sono quella cosa lì. La religiosità. Quindi da questo punto, religiosità proprio in questo senso, ripeto, è come legame con una qualcosa, un'alterità, appunto, come è per l'innominato, che non riesci né ad evitare né a dominare. Capite che l'innominato non va a cercare Lucia, è Lucia che gli viene portata. Ma dal momento che Lucia è entrata nella sua vita, la vita dell'innominato è chiamata a un salto. Non può far finta che Lucia non ci sia più. Ormai c'è. Ora, in senso generale, questo mi sembra essere la religiosità, questa sorta di inquietudine con un'eccedenza. Con un'eccedenza, che poi trova forma nel da dove vengo, quali sono i miei antenati, quelle robe lì, ma che è un'eccedenza. Sono qui perché ho un corpo, sono qui e non sono mai qui, sono anche là. Sono là, per esempio, di una madre che ha il figlio all'estero. È qui ed è là. Continuamente là. E la religione che cos'è? Io rimango, mi sembra buona la definizione che dà un non credente, che è Durkheim. Durkheim è un sociologo che dà questa definizione di religione, che la religione è l'amministrazione del sacro. Definizione molto interessante, io trovo giusta. Io dico così, ridicendolo in un altro modo, che la religione è un insieme di pratiche, essenzialmente narrazioni e celebrazioni, cioè essenzialmente miti e riti. La religione è un insieme di pratiche attraverso le quali l'uomo cerca di vivere la religiosità, cerca di abitare la religiosità. Scusate con un gioco di parole, ma non vi voglio scocciare, ma lo trovo giusto. La religione è quell'insieme di pratiche attraverso le quali il soggetto, l'uomo, gli uomini, cercano di abitare l'alterità che li abita. L'amministrazione. E qui ritorniamo al nostro problema. L'amministrazione. Ma l'amministrazione è quello che succede tra un uomo e una donna che si vogliono bene e si sposano, no? Nel momento in cui si sposano, è bellissimo, cioè l'amore non ha la A maiuscola, come si dice, l'amore ha sempre la A minuscola, no? Perché cosa vuol dire? Che tu poi ti sposi e allora inizi a che ora ci vediamo, e poi c'è da portare la pattumiera giù, no? C'è la cena, la facciamo insieme, l'amministrazione. Siamo fatti così noi, siamo fatti così, abbiamo bisogno, appunto, l'amministrazione. Elisabetta, se no è come quello che dice, dice alla moglie, ho passato il weekend con la segretaria, però abbiamo passato tutto il tempo a parlare di te. Capite? Ora immagino che una moglie così o un marito così dica, ma se l'amore che tu dici che hai per me non determina il tempo, i soldi, lo spazio, il corpo, è finito. Ora, perché è interessante questa affermazione dell'amministrazione del sacro? Beh, per quello che dicevo prima. Qual è il pericolo? Che l'amministratore si trasformi in un padrone, no? È ovvio che è così. La religione è sempre intessuta col potere. Inevitabilmente col potere. Perché quando una religione crea un mito, il mito dice le cose sono avvenute così e così. Non è che tu puoi dire ma a me sembra di no. Quando una religione stabilisce un rito, il digiuno, oppure il sacrificio, è sempre un luogo di potere, inevitabilmente. Il problema qual è? Che non necessariamente, e appunto ritorno alla questione, non necessariamente il potere è dominio, perché può essere anche servizio. Come noi sappiamo in tutte le nostre case. Non è vero che noi siamo sempre padroni. Noi a volte non siamo padroni, siamo capaci di non essere padroni. E non solo con i figli, che sembra più facile, ma con la persona che amiamo. Addirittura con gli anziani, con i nonni, con le persone malate. Allora dico sempre così a lezione. Una religiosità si incarna sempre in una religione. E la religione può essere al tempo stesso condizione di approfondimento del religioso e luogo di morte del religioso. Per usare un termine su cui Derrida, che è uno dei miei autori, ha scritto un testo magnifico, riprende il testo, Derrida, il testo è La farmacia di Platone, dove Derrida svolge, questo filosofo francese, tutta una riflessione sul termine greco pharmakon. E pharmakon cosa vuol dire? Pharmakon è medicina e maveleno. Ma questo è l'umano. E cioè esattamente che ciò che mantiene in vita può essere in ogni istante ciò che porta alla morte. E quindi continuamente si riproduce lo scarto, come dire, della libertà. Allora io dico, direi così, che se si dovesse dire, se c'è un legame tra la religione e la felicità, io penso, ripeto, nessuna religione garantisce la felicità. Tutto il problema delle religioni è del rimettere, io non riesco a trovare, che poi è il concetto di resurrezione su cui volevo dire una cosa. La religione è il tentativo di permettere all'uomo di vivere da uomo, quindi rimette in piedi l'uomo. Il tentativo della religione di rimettere in piedi l'uomo non è di togliere la sofferenza, ma è di aiutare a vivere da uomini la sofferenza. Non è di togliere il piacere, ma il tentativo di aiutare l'uomo a vivere da uomo il piacere. È chiaro che questa cosa è complicatissima, perché la religione rischia sempre di trasformarsi nell'oppio dei popoli, ma non c'è dubbio. Rischia sempre di trasformarsi in una struttura di dominio, in una struttura di potere. Io ogni volta che sento le critiche alla religione come potere, io sono d'accordo. Il problema è che questa non è una necessità, perché questa è riconsegnata alla libertà umana. Ogni volta, e ci sono state epoche che non è stata così, non è sempre vero, anche la religione cattolica, per esempio, non è sempre vero che la religione cattolica è stata oppressione, dominio, o come diceva uno, Boncinelli che sul Corriere ha il coraggio di scrivere che la religione ha sempre a che fare con la superstizione e con il fanatismo. Questo lo pensa lui. Perché non è affatto vero. È un'affermazione del tutto non scientifica. La religione spesso è diventata fanatismo, ma appunto, come dice Seneca, ricordando un detto di Mecenate, le cime delle montagne sono quelle più esposte ai fulmini. È chiaro che tu più fai certi discorsi, più le robe si complicano, più il rischio diventa alto. Ecco, e io penso che il concetto di resurrezione, qui c'è un bel testo della Dolteau, Françoise Dolteau, la psicoanalista, morta 15 anni fa, 20 anni fa, però è uscito in traduzione italiana una sua lettura da psicoanalista lacaniana, dei Vangeli. L'edizione è Et Altra Edizione di Milano, Et Altre Edizioni. E lei dà questa interpretazione della resurrezione che mi sembra molto interessante. Dice, certo, la resurrezione è quella lì, ma analizzando Gesù, i miracoli di Gesù, le parabole di Gesù, dice la resurrezione è un rimettere in piedi l'uomo. Da che cosa? Dalle sue paure, dalle sue angosce, dalla sua acidità di stomaco, dalla sua invidia, dal suo narcisismo. Gesù, rimettere in piedi. E c'è una cosa bellissima a proposito del rimettere in piedi. Risorgere e rimettersi in piedi. In fondo, dopo Gesù non è cambiato nulla. Si continua a morire, si continua ad ammalarsi, si tradisce la moglie e il marito, ci sono le guerre, non è cambiato nulla. Ma l'idea è quello di un cambiamento di un uomo che viene rimesso in piedi. Rimesso in piedi. Ed è bellissimo, finirei così, quindi risorgere è un modo d'essere, è un modo di vivere, appunto, non narcisistico. Io dico sempre che Gesù è risorto prima di risorgere, perché viveva da risorto. Nei rapporti con le donne, con i bambini, con la legge, col suo corpo. Non aveva bisogno, in un certo senso, sì, poteva anche. Era tutto risorto. È un modo d'essere risorgere. È bellissima la cosa, a proposito del risorgere, del miracolo, diciamo così, della suocera di Pietro. Se andate a leggere, è bellissimo, lui va nella casa e appena entra a Cafarno, dicono, guarda, gli amici gli dicono, sta male. Lui cosa fa? La guarisce, ma non è questo interessante. Cos'è che è interessante? Appena guarita, si dice, si alzò e si mise a servirli. Questo è il punto. Questo è il punto. Il punto non è il miracolo. Il punto li facevano tutti i miracoli. Il punto non è il miracolo che gli ha tolto la febbre. Il vero miracolo è che questa donna si rimette in piedi e non va a mettersi il rossetto. Li servì. E sarebbe questo sarebbe un uomo. E io penso, che questo non è certamente forse la felicità, ma insomma non è male. Grazie. Ringraziamo anche Silvano Petrosino per questo suo intervento, laddove ha creato una sorta di umano sfumato, mi verrebbe da dire, che lascia spazio ad una indeterminatezza, al limite di una bivalenza dell'esperienza umana, che è religione ma è anche e soprattutto religiosità, che è bramosia ma è anche desiderio, che è narcisismo ma può essere anche io, e che è infine un soccombere ma allo stesso tempo può essere anche una resurrezione, nel senso di rimettersi in piedi per servire. Ringrazio anche i due relatori per essere stati assolutamente nei tempi, e questo ci dà modo per una interazione ed una partecipazione che adesso possiamo avviare. Per cui liberamente, se qualcuno desidera sottoporre un'osservazione, una domanda, lo può fare, ci sarà il microfono che gentilmente passerà in sala. Raccogliamo magari due o tre interventi per poi cedere un primo giro di risposta ai nostri relatori. Abbiamo già il primo intervento. Una domanda a tutti e due. Ci sarà un giorno in cui la filosofia e la religione discuteranno sulla felicità del femminino, della donna? Un'ultima domanda che possiamo raccogliere. Ecco, in terza fila. A tutte e due. Vorrei capire se entrambi associate diciamo la difficoltà eventualmente di legare, di abbinare il concetto di felicità alla religione, pensando, è un'ipotesi, vero, a cui ho pensato spesso, se questa sia legata anche al concetto di verità, che è diverso diciamo in latino, che è la veritas, rispetto all'origine della filosofia, no? In greco, che è aletheia. Quindi in senso greco la verità si mostra come svelamento, come il dischiudersi di qualcosa, che ai miei occhi lo rende molto più simile, diciamo, ad una visione buddista della verità e quindi della felicità, mentre c'è una certa assertività, no? Nel concetto religioso, nel concetto di felicità nella tradizione cristiana, cattolica, come la si vuol chiamare, che la rende forse un po' troppo opprimente, quindi la rende vincolante, rende quasi necessaria una ricerca, no, della felicità, mentre forse un senso più legato all'abbandono può darsi che favorisca l'accoglimento dell'altro, no, dell'io. Quindi è una cosa a cui ho sempre pensato, da non credente, perché non lo sono, però mi ha sempre incuriosito il fatto di che cosa sarebbe successo se al bivio, all'inizio della filosofia, se al bivio il concetto di verità occidentale avesse seguito in tutto e per tutto quello greco e non quello latino. Concetto di verità, scusate. Bah, questa cosa del femminino, allora, per quanto riguarda le religioni, nella maggioranza dei casi le religioni che hanno datazioni millenarie mi risulta che non abbiano mai pensato al femminile. Anche il taoismo, che è forse da un punto di vista speculativo la cosa più vicina che ci sia a una impostazione femminile, perché appunto il Tao è come la madre nutrice, ma poi in pratica sono sempre state religioni che hanno privilegiato il ruolo dell'uomo, insomma, da un punto di vista antropologico, storico-antropologico. Il Buddha ammette le monache sotto la spinta e le sollecitazioni di Ananda, il suo migliore e più intelligente allievo, ma con forte riluttanza, perché sapeva che le donne sono pericolose. Perché? Perché sono fonte di desiderio e quindi sono pericolose psicologicamente. Alla fine poi hanno fatto i monasteri separati e vabbè. Questo da un punto di vista puramente storico mi pare che non ci sia nessun dubbio. E altro problema dal punto di vista dei contenuti. Allora qui io credo che non è vero che le religioni non hanno riflettuto su questo discorso del femminismo. Penso sia anche al cristianesimo, se non altro al cristianesimo, alla teologia contemporanea, ma anche all'interno del buddismo, insomma, ormai le cose sono molto evolute. Non parliamo poi della filosofia, perché se noi rimaniamo fermi a quello che diceva Schopenhauer e Nietzsche, dicevano loro sulle donne, vabbè, chiudiamo bottega e non ne parliamo più. Ma io ricordo che non c'è filosofia né anglosassona, né francese, né tedesca, né italiana che non abbia sviluppato una quantità di studi negli ultimi 50 anni sul femminile, anche eccessivi, cioè eccessivi nel senso che hanno rovesciato talvolta i termini, facendo, come dire, prendendo le posizioni dogmatiche. Per quanto riguarda la questione della verità, qui questa è una questione molto più complicata. E allora, non mi azzardo a dire nulla di che cos'è la verità per la religione, perché non, neanche lo so, insomma. Per quanto riguarda i greci, anche lì bisognerebbe distinguere i vari personaggi, per esempio, tanto per dire, Aristotele, Platone, anche, e la cosa sarebbe molto lunga. Quindi mi limito a quello a cui mi sono riferito questa sera, e cioè al buddismo, che tra l'altro io ho parlato del buddismo originario, il buddismo del canone, non ho parlato degli sviluppi posteriori dopo il secondo secolo, eccetera. Bene, qui la verità è intesa, come dire, quasi in modo scientifico, in scientifico tra virgolette, cioè il Buddha fa un famosissimo discorso in cui dice: è bene che abbiate dubbi, è bene che abbiate dubbi. E che sembra l'esatto opposto del dire credete in qualcosa. E poi continua dicendo che abbiate dubbi, che non crediate alle dicerie, alla pura logica, al sentito dire, alle verità dette dai religiosi, eccetera, eccetera. Ma, in positivo, provate se le opinioni, se sono utili o no. Utili vuol dire dannose o no. Dannose cosa vuol dire? Per sé e per gli altri. Quindi la posizione del Buddha, almeno dai discorsi originari, è una posizione pragmatica, quella che noi tecnicamente in storia della filosofia chiamiamo una posizione pragmatica. E cioè, se la verità non è da stabilire in senso logico astratto o dogmatico in senso assoluto ed eterno, ma semplicemente in base alle condizioni di efficacia dei danni e dei meriti che si possono trarre da una posizione. Allora, se una posizione, una opinione, una sedicente verità produce dei danni a sé e agli altri, perché certe volte i sostenitori delle verità non sanno, non si avvedono che fanno danni anche a se stessi, e comunque se questa verità non produce danni né a sé né agli altri, allora seguitela, se no non seguitela, abbandonatela. Questa è la posizione del Buddha, non ho altro da dire. Non credo di aver risposto che in centesima parte, ma è quello che... Bene, grazie. E Silvano Petrosino, sì. Se vuole... No, allora, no, la prima domanda poi mi permette di anche rispondere un po' a tutto. Come si fa a non trasformare... Cosa si vuole? La ricetta... Questo è il dramma, io uso questa parola, questo è il dramma dell'umano. Come fai a non trasformare l'amore con la moglie in consuetudine o col marito? Come fai a non trasformare l'insegnamento in una forma di dominio? Come fai a trasformare la ricerca del piacere, che è una cosa buona, in una passione incontenibile? Come fai a non trasformare il lavoro in una mania? E punto. Come? Si chiama responsabilità e libertà. Ogni volta l'uomo è chiamato a ridecidere di essere uomo. Ogni volta l'uomo è chiamato a ridecidere sull'amore, sull'amicizia. Come si fa a non far sì che un'amicizia non finisca? E come si fa? E chi lo sa? Cioè, c'è il modo, ogni tanto bisogna fare una telefonata, bisogna condividere il dolore, la sofferenza. Ora, Evi, questo, a me sembra questo che non sia una semplificazione. Questo mi sembra che sia invece il cuore della vicenda. Appunto, ogni volta si deve ridecidere, ed è stato così, ma per tutte le religioni. Le religioni si sono riformate, sono cambiate. Anche qui, a volte, per favore, non facciamo i discorsi banali e banalotti. Non è mica semplice, è chiaro che c'è un'evoluzione. È chiaro che c'è un'evoluzione. Io ci credo molto a questo. E quindi non c'è nessuna garanzia, se non il fatto, questo sarebbe il ruolo degli intellettuali, il ruolo dei fedeli. È chiaro, con differenze, perché io penso, ma dico una stupidaggine, che chi più ha potere ha maggiore responsabilità, no? Quindi fra, diciamo classicamente, in una religione, tra il sacerdote e il fedele, ha più responsabilità il sacerdote. È lui che deve maggiormente lavorare affinché la religione non si trasformi in oppio. Il problema, ripeto, è che io penso che non si possa dire che la religione sia oppio, come non si possa dire appunto che il soggetto è necessariamente narcisistico. È un lavoro, è una cosa. Sulla questione della donna, anche qui, non so, io dico solo una cosa, si sta trasformando in una trappola sta cosa della donna, in una parola magica, cioè non basta dire donna, dovremmo un po' smetterla, cioè ci sono state delle cose, ci sono delle giuste, ma questo è come al solito, come nei confronti degli animali, come nei confronti degli handicappati, a secondo delle gerarchie, a secondo le società, e quindi bisogna fare questo lavoro, però non è che basta dire donna. Cioè, non è che sono più buone degli uomini, anzi, purtroppo, sono proprio uguali agli uomini. E per me questo non è un complimento. Devo dire che da questo punto di vista io trovo che più interessante rispetto al tema della donna sia il tema del potere. Cioè, quando la donna arriva al potere è uguale all'uomo. È il potere che è la questione. Questa storia, per favore, di questa retorica che le donne sono più sensibili, che capiscono di più, che hanno il sentimento. Ma dai! Cioè, possiamo dire, siamo tutti contenti. No, dico una cosa che adesso va contro moda, ma insomma, potremmo continuare a dire, siamo tutti... L'altro giorno in TV intervistano una sui cosi dei centri geologici in Italia, com'è la situazione, questa qui dice sì, la situazione è complicata, fra l'altro la maggior parte sono diretti da donna. Ma cosa c'entra? Ti prendi l'occasione per fare una sparata, sono cose, non so, però poi ognuno gode come può, se si vuole godere continuamente a fare questa celebrazione della donna. Sulla questione della cosa, anche qui, calma, la filosofia, davvero, questa idea che la filosofia assertiva, l'Occidente, ma dove? Qui siamo di fronte a una tradizione millenaria, grandiosissima, ma veramente noi possiamo dire che l'Occidente è assertivo, violento, che la verità è così? Ma veramente ci sentiamo, tutto il discorso che fa Platone, tutta la riflessione di Platone, tutto il dramma dell'alterità, del rapporto con l'altro, è tutto qui? Tutto il discorso, per esempio, di certo, come nel caso delle religioni, qui nessuno è salvo, nessuno può, e poi si riproducono all'interno sempre, no? Dove le cime sono alte cascono i fulmini, allora certamente si può trasformare in questo. Faccio solo un riferimento al discorso religioso. A me è una cosa che ha sempre commosso del quello che chiamo il logos biblico, cioè le religioni del libro. L'affermazione la gloria di Dio è l'uomo vivente, che si avvicina a quello che diceva prima il professore. La gloria di Dio non è Dio, è l'uomo vivente. Dov'è l'assertività qua? L'uomo vivente vuol dire l'uomo vivente, cioè l'uomo che sa mangiare, sa guardare, sa ascoltare, sa camminare. L'uomo vivente. Io tutta questa cosa della... Ma certo, appunto, è chiaro che la religione si può trasformare in che cosa? In un mattarello che tu dai in testa agli altri, e si è trasformata così, e il sapere, non la filosofia, in che cosa rischia di trasformarsi? In un mattarello che tu dai in testa agli altri. Sapere, potere, religione, potere, non c'è dubbio. Appunto, però attenzione a stabilire come dei nessi di causa ed effetto. Cioè, anzi, devo dire, da questo punto di vista, la tradizione filosofica davvero è gloriosa. Una battaglia continua. Abbiamo Tommaso, ma abbiamo anche Agostino. Ci sono cose, c'è Leibniz, c'è della gente stratosferica. Abbiamo avuto Heidegger con tutti i limiti. Cioè, noi siamo in presenza di maestri, capito? E si può dire, tutto il lavoro, per esempio, di Heidegger sul concetto di verità, che non è riducibile al tema della Lezeia, è tutto, per esempio, una riflessione se è possibile avere una concezione non rappresentativa, cioè se è possibile uscire dalla rappresentazione. Tutto il discorso, per esempio, di quel filone enorme del pensiero occidentale che è la psicoanalisi. Freud introduce un concetto di verità che è totalmente rivoluzionario e che non coincide affatto con l'asserzione. Cioè, quindi, calma. La cosa appunto interessante, ripeto, è per me il tema del dramma, ed è chiaro che periodicamente c'è sempre qualcuno che dice la verità la so io, la conosco io. Ma questo finché ci sarà l'uomo ci sarà sempre. E ci sarà sempre qualcuno che dirà tu devi fare così e tu devi fare cos'ha. Però noi in questa epoca qui, per esempio adesso, che da una parte uno dice siamo in un'epoca più liberale, bla bla bla bla, sì e no, perché oggi che ci continuano a dire tu devi fare così e tu devi fare cos'ha, no? Ce lo continuano a dire, magari dicendo che questo serve per la nostra salute, e tu devi fare così e tu devi fare cos'ha. Magari non parlano più di verità perché la parola non va bene, però parlano, insomma... Basta guardare le pubblicità è il trionfo di una religione secondo la logica del potere. È tutto potere lì. No? Grazie anche a Silvano Petrosino. Possiamo raccogliere un altro paio di interventi. Prego, se qualcuno desidera può alzare la mano. E qui sulla mia destra, in quarta fila, la signora, non vedo bene, il signore, ecco, si alza la mano, grazie. Senta, il mio è un semplice parere, poi dica lei. Non sembra che, come viviamo oggi, tutte queste grandi filosofie abbiano fallito i loro intenti? Abbiano fallito? Il loro intento, la filosofia occidentale... Non le sembra che abbia fallito, guardando in che condizioni viviamo, rispetto a come invece indica la filosofia orientale? Grazie. Un altro intervento a chiudere. Non mi pare ci sia, magari lo aggiungo io, spingendomi forse in un'ottica quasi compatibilista tra i due, cioè se il concetto limite di felicità inserito in un altro concetto limite come quello dell'umano, in fondo non sembri quasi alludere a quella succa che proviene da un desiderio che estingue addirittura il desiderio del nirvana. Che sia anche questo in fondo un rimando ad una ambivalenza dell'umano che è inafferrabile, che rimarrà sempre aperta e come tale indefinibile. Comunque, la risposta prima all'intervento dalla sala. No, ma mi trovo in una situazione, non so, a difendere l'Occidente. Ma cavolo! Attenzione! Attenzione, l'Occidente è l'antibiotico, L'Occidente sono le fognature, l'Occidente è la corrente elettrica, l'Occidente... La scienza esatta, che è l'antibiotico, è l'Occidente. Libertà, fraternità, uguaglianza, è l'Occidente. Capito? Ecco, attenzione, viviamo come viviamo. 150 anni fa si moriva di febbre puerperale, E non c'era l'antibiotico. E i bambini morivano con una mortalità del 40%. E nei paesi dove non c'è l'Occidente, dove non c'è stato, è così ancora adesso. Allora, attenzione, perché si dice l'Occidente, ma cavolo, l'Occidente è una tradizione pazzesca, cioè non è che noi possiamo liquidarla, cioè Heidegger lo può fare e ha sbagliato, dicendo che tutta la metafisica occidentale, vabbè, ma lì ognuno fa quello che vuole, poi lui poteva permetterselo di fare delle sparate. Però, cioè, io devo dire, adesso non so, perché poi dipende si va... Si vanno in cose strane, ma insomma io sono contento di poter comprare tutto Orazio con testo a fronte a 8 euro. E io sono contento che lo può comprare in una situazione così anche quello che nasce dalla famiglia di poveretti e non solo quello ricco. Io sono abbastanza contento che si riesca a fare una lezione di filosofia anche a gente che viene, come nell'università, dall'istituto tecnico. Io sono abbastanza contento. No, c'entra, perché questo è l'Occidente. L'Occidente è questa cosa qui. L'Occidente è la scienza. No, no. Come? Ma cose, quale egocentrismo? Sto dicendo che l'Occidente è scienza, è tante cose l'Occidente. Chiaramente. Però qui, appunto, bisogna poi avere la forza di dimostrare che è così. Chiaramente scienza rischia di trasformarsi, figuriamoci che io faccio la difesa della scienza, scienza rischia di trasformarsi in tecnologia e tecnologia in potere, ma non c'è dubbio, questo è ovvio. E quindi può essere che, ma questo allarga il discorso a una dimensione politica, è chiaro che le aziende che lavorano con il vaccino per l'AIDS, contro l'AIDS, non tolgono i brevetti e quelli lì quindi muoiono? Beh, certamente. Però c'è stato anche quello della poliomielite, che quando appunto ha scoperto la cosa e gli chiesero se voleva brevettarlo, lui disse di no. Cioè, attenzione a dire l'Occidente assertivo, che bello l'Oriente! No! L'Occidente e l'Oriente è una questione, sono due grandi ipotesi, c'è tantissimo per me, per esempio una delle cose che io trovo commovente, non sono un esperto, ma commovente della tradizione buddista, dell'Oriente, è il concetto di compassione, che io trovo assolutamente che non si possa vivere senza compassione, ma sono contento di vivere anche con l'antibiotico però, devo dire proprio se devo... Se mi dovessero, perché non si può vivere insieme con le due cose, con l'antibiotico e con la compassione? Potrebbe spiegare meglio l'ilarità di San Francesco, visto che noi siamo rimasti legati a Madonna Povertà? E dobbiamo però vedere, non voglio. E no, la questione è esattamente quello che dicevo, cioè ci può, non necessariamente, il problema è la Letizia, che è quell'uomo vivente, la gloria di Dio è l'uomo vivente è un po' stato descritto, l'uomo vivente, adesso non è che ci vogliono grandi parole, l'uomo vivente, un uomo che sa ascoltare, che sa passeggiare, che sa bere un bicchiere di vino, l'uomo vivente, uno che non se la tira, direbbero i ragazzi, sono ordinario, primario, professore, no? Un uomo vivente, la gloria di Dio è l'uomo vivente. Allora, Francesco dice che questo appunto il sommo vertice è rappresentato dalla Letizia. La Letizia, che è nel Logos biblico, la grande profezia di Isaia, no? Non spegnerà il lucignolo, non romperà la canna incrinata. Un uomo compassionevole, di accoglienza. Però appunto nell'ilarità, perché tu puoi essere povero, puoi avere, come il film che avete visto, puoi avere un saio ed essere arrabbiatissimo, ed essere arrabbiato col mondo, con te stesso e via dicendo. Ecco, allora, il problema è quello della ilarità, della letizia. La prova, dice San Francesco, dell'uomo vivente, la prova più sicura è la letizia. Per non stabilire un rapporto di causa-effetto tra povertà e pienezza. Non so se è chiaro, eh? Cioè bisogna rompere i rapporti di causa-effetto. Ci può essere povertà e abbandono e al tempo stesso violenza. Rompere i rapporti. Questo, ma adesso dobbiamo fare un'altra serata su Francesco. Benissimo, ringrazio Silvano Petrosino, ringrazio anche Gian Giorgio Pasqualotto, ringrazio tutti per la partecipazione di questa sera. Ricordo che lunedì prossimo si tratterà il tema di felicità e scienza, alle 17.45 il film Her, alle 21 la conferenza con Telmo Pievani e Ilaria Capua. Ringrazio anche quanti hanno compilato il questionario che pregherei di lasciare all'ingresso. Una buona serata.